collina dell'amore e del vento. Solo il fumo si trascina, il mio corpo è una barca senza timone, senza nome, alla deriva verso della morte che sento, il sangue è poesia, ricama rivoli sul mento, un'ordinaria follia, elefanti rosa danzano nel mio cervello. Idum ogro lenome remix sic transit gloria mundi. Della morte che sento, il sangue è poesia, ricama rivoli sul mento, un'ordinaria follia, elefanti rosa danzano nel mio cervello. Ogrog, lenome rednex, sic, transit, gloria, mundi, mundi. Il sole rotola dietro alla collina, vita mia in scatola, sosta lungo la via. Sono capace di specchiarmi tu nei vostri occhi, non riesco ad apparecchiarmi più per le vostre bocche, le vostre bocche. Thank you.